Stare con la tipa non fa per me. Andare al lavoro non fa per me. La scuola no, non faceva per me. Il calcio, i motori, le attrici, gli attori non fanno per me. Tanti amici nella via entrano bendati. Fanno tirar sulle mani nei supermercati. Questo pezzo fra per quelli meno fortunati. No, no, no, no. Che non hanno mai avuto il rap a salvarli. Pensavo di finire dentro per qualche reato. Qua se nasci tondo diventi quadrato. Quadrato di case dell'aler che spesso ti tieni in ostaggio. Rime sul foglio fracola il disagio. Cane al parchetto le sere di maggio. Con i fratelli impauriti dal gabbio. Io so che cambierà tutto fra come un presagio. Come se tutto ora fosse un passaggio. Come scalare la vetta del mondo e sedersi sul prato a godersi il paesaggio. È tutto quello che faccio, tutto ciò per cui mi sbatto. Senza contatti, contanti, anche senza contratto. Stare con la tipa non fa per me. No, no, no. Andare al lavoro non fa per me. La scuola no, non faceva per me. Il calcio, i motori, le attrici, gli attori non fanno per me. Non faccio le rapine, io faccio rap. Non vendo le bustine, io faccio rap. E non me ne frega tanto di quello che pensi te. Vado avanti e penso che ciò che mi ha salvato è il rap. E quanti miei fra sono rimasti gli stessi. Vivono ancora svoltando quegli etti. Stessi compari, stessi parchetti. Zero contanti, zero progetti. Spesso la fame ti porta a far danni. Spesso la strada ti porta a far tardi. Spesso mi son detto di non voltarmi. Pensare a me senza credere agli altri. Credere che sia possibile saltare i passi. Poi saltare il limite. Passano gli anni ma continuo a spingere. Come se vivo soltanto per vincere. Senza processi né cert. Senza avvocati con me. Ma con i pezzi nel club. Ci riesco solo col rap. Stare con la tipa non fa per me. Andare al lavoro non fa per me. La scuola no, non faceva per me. Il calcio, i motori, le attrici, gli attori non fanno per me. Non faccio le rapine, io faccio rap.